Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. Fiorentina di nascita, cantante, autrice e pianista, è stata scoperta dal leggendario talent scout Vincenzo Micocci. Collabora con Fiorella Mannoia, con Riccardo Cocciante, con Claudio Baglioni, il suo primo album nel 1995. A oggi ne ha pubblicati 5, tutti con collaborazioni d'eccezione. Negli ultimi 2, L'insulto delle parole e La lingua segreta delle donne, decide di dare spazio anche alle testimonianze di protagonisti della vita culturale e del mondo civile. Nel primo si concentra sull'uso volgare del linguaggio e sulla manipolazione del vocabolario, nel secondo sull'identità delle donne. Lei è Susanna Parigi e La lingua segreta delle donne esiste davvero. Esiste proprio, esiste, è reale, si chiama Nushu e veniva parlata ed era una donna, una lingua delle donne cinesi che veniva tramandata sia oralmente sia... anche a volte scritta. Infatti veniva regalato questo libro quando le donne si sposavano, diciamo le sorelle, quelle chiamate sorelle, anche se non di sangue, si sposavano, e poi veniva anche ricamata a volte negli abiti, essendo una lingua, avendo caratteri curvilinei, veniva scambiata per un ricamo, no? Ed era una lingua appunto che gli uomini non comprendevano, è questa la caratteristica, credo forse se non unica, quasi unica. Quando ho letto questa cosa immediatamente poi scattano le domande, no? Te le fai, come mai si è formata una lingua così? Perché? E poi vai a vedere, scopri che la situazione delle donne cinesi era veramente bruttissima, consideravano spesso il matrimonio una condanna perché le portava via dalla famiglia, spesso per una vita intera non parlavano col marito, c'erano le concubine, esisteva questa tradizione dei piedi fasciati che le rovinava fino da piccole, insomma la situazione era veramente brutta. Comunque per fartela breve, ho immaginato immediatamente, come un film quasi, una città senza porte, che è uno dei brani dell'album, quindi una città aperta a tutto e anche indifesa, che però potesse proteggere alcuni segreti che queste donne volta a volta venivano a depositare in ciascuno dei brani del disco. Nasce dal tuono e dal gusto del miele, dall'onda del suono che vibra le casse, dal lento svogliato che muove le tende, è una certa esaltazione di vivere. Anche questa volta non ti basta il disco. Si avverte sempre l'ansia di dire qualcosa di più e di non dirlo da sola. Anche questa volta, come mai? Come dire, in momenti così, chiamiamoli pure bui per il corpo della donna, per la femminilità, forse a volte si sente anche l'esigenza di fare squadra, che forse la squadra possa aiutare. In questo lavoro mi hanno aiutato tante splendide donne come Lella Costa, recitando nel primo brano, nel brano di apertura in Liquida. Poi ci sono i contributi speciali dove c'è una bellissima Pamela Villoresi che recita una poesia della Cimbosca. Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità, chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio, non si arrabbi la felicità se la prendo per mia, mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria, chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge ad ogni istante, chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo. Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa. E chiedo scusa a chi grida negli abissi per questo disco col minuetto. Poi Ottavia Piccolo, che parla di questa donna giornalista morta quasi eroicamente facendo bene il suo lavoro, della Politkovskaja. e così Gianna Schelotto che parla del Nushu, e Teresa De Sio per esempio che parla di una lingua segreta dei musicisti napoletani, della parlesia. Quando si parla del linguaggio segreto delle donne, mi viene in mente questa cosa, che probabilmente diciamo l'ingegno femminile nel corso dei secoli ha elaborato una sorta di linguaggio cifrato, e probabilmente non soltanto questo gruppo di donne, probabilmente un po' dovunque nel mondo ci sono dei linguaggi cifrati tra donne. Penso che è arrivato il tempo in cui le donne smettano di parlare il loro linguaggio segreto e che possono parlare una lingua che non sia più costretta ad essere segreta, ma che sia accessibile a tutti, compresa da tutti, e che proponga il femminile al resto del mondo nella maniera più diretta, forte, convinta e immediata possibile. Quindi, come dire, visto i tempi, anche se questo album io l'ho scritto più di un anno fa, perché poi l'abbiamo registrato e tutto, e quindi non in tempi sospetti come in questo momento, però cade appunto in questa situazione, anche se devo dire, a parte gli ultimi fatti, diciamo che la situazione era abbastanza intuibile anche molto molto tempo fa. Se noi eravamo più vigili, no? Sono una donna, e quindi su questo non c'è dubbio. E quindi ho deciso di raccontare le donne. Delle donne si può dire tantissimo, le donne sono un universo meraviglioso, nel bene e nel male, come tutti gli esseri umani. Hanno però una particolarità, secondo me, che si mettono in gioco e in discussione molto più facilmente degli uomini. Quindi è questo che io in genere voglio raccontare, e mi piace essere qui dentro a parlare di donne. Tutto, proprietà, commerciabilità, infallibilità, tutto voracità, tutto falsità, tutto e a volte anche con l'aiuto di uomini sensibili. Tornano le parole straordinarie, i testi di Kabbalah. Certamente, infatti guai pensare, a volte mi fanno questa domanda, no? Visto il titolo dell'album, visto che nell'album c'è una canzone che si intitola L'uomo senza qualità, no, attenzione, è un uomo, cioè un tipo, una tipologia di uomo, l'uomo vorace, l'uomo che ama il bottino di guerra, l'uomo che compra, l'arrogante, il prepotente, quello che ama il potere. Quindi allora dico nel disco, dico nella canzone, a questo tipo di uomo preferisco di gran lunga mani di donna, no? Ma per il resto no, ci mancherebbe. Infatti ho la collaborazione ormai da 10 anni di Kabbalah, che è un uomo appunto, e quindi non è, ecco, anche questa cosa, no? Adesso accade che le donne fanno le manifestazioni, vanno in piazza, ed è un bel risveglio, è bella questa cosa, è giusto che ci sia, però ecco, ci terrei a dire che secondo me il problema della donna è solo uno dei tanti problemi che ci troviamo in questo momento, come quello economico, come quello della barbarie culturale, ecco. Volesse il cielo che passato il vento ritornasse il canto che non finirà. Ed ascoltare. In mezzo a tanti brani interamente tuoi, o con la collaborazione di Kabbalah o anche con Ferruccio Spinetti, hai ripreso un pezzo bellissimo. Così, di Mia Martini. Esatto, con un ringraziamento a Mia Martini. E perché? Perché, come dico nel ringraziamento, è stato il percorso della mia voce da quando ero molto piccola, L'ho sempre stimata tanto, l'ho sempre amata tanto, mi sono avvicinata a questo brano che non è molto conosciuto, anzi poco, è del 75, è meraviglioso ed è di Toquinho e Moraes, il titolo è Volesse il cielo, e mi ci sono avvicinata con grande rispetto e anche un po' di paura, insomma, perché avendo così tanta stima di lei. Allora ho voluto questo unico brano dell'album, è stato registrato proprio in diretta, cioè di solito sai si fanno le basi, poi si registra la voce, no? Invece questo è stato registrato proprio in diretta, senza sovrapposizione, io al pianoforte, il mio chitarrista Matteo Giudici e basta. Aiutami a capire, organizza il mio mondo anticipando quello che succederà, dammi ordine e struttura, la confusione non mi piace, non è per me, cerca di capire il mio mondo, se lo farai troverai sempre il modo di entrare in relazione con me. Non ti scoraggiare. Se mi aiuterai, vedrai che ci riusciremo. Non parlarmi troppo né troppo velocemente. Quando mi vedi arrabbiato o confuso, non pensare che io ce l'abbia con te. Ho bisogno del tuo aiuto per mettere ordine nelle mie emozioni. Vedo tutto, sento tutto. Mi accorgo di tutto, ma faccio fatica a scegliere. Aiutami tu a farlo. Chiedimi di fare ciò che mi riesce. Non pretendere ciò che non è alla mia portata. Sii presente con naturalezza. Non farlo diventare un'ossessione. Faccio ciò che posso e posso migliorare anche se dall'autismo non si può ancora guarire. Tu hai anche così regalato una pagina del booklet per un tuo impegno sociale. Ci siamo conosciuti e si può dire per caso un mio concerto del precedente album L'insulto delle parole, e quello che era piaciuto a questa associazione che è ANCSA Lombardia, che si occupa di persone affette da autismo, era questo mio riflettere sull'insulto quotidiano alla parola, no? Come noi spesso la massacriamo, come spesso diventa menzogna questo cambiare nome alle cose, mentre ci sono persone che hanno addirittura difficoltà di comunicazione. È anche a che fare col segreto, tra l'altro, perché ci sono tante persone, quasi tutte, come se avessero dei segreti che non riescono a comunicare. La nostra voce in scena di oggi era quella di Susanna Parigi. Ci ritroviamo domani da Marta Cagnola. Ancora l'augurio di una buona giornata.